Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ed è a loro che io voglio rivolgermi, agli uomini non violenti, che sono la gran parte. Io penso che questi uomini sono troppo silenziosi. Questi uomini non si sentono, non si vedono, non si sentono. Sono, come dire, sono da parte. Ma io dico, se volete veramente davvero bene alle donne, se veramente voi le amate, le donne, le vostre mogli, le vostre figlie, voi uomini non violenti, fatevi avanti. Dovete stare con noi, insieme a noi, in prima linea per fare questa battaglia. Bello e forte questo appello che la Presidente della Camera Boldrini, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lancia agli uomini non violenti, che dice sono la gran parte, la maggioranza, però sono sempre le donne che parlano di questo tema, quando il problema è in primis degli uomini, quello della violenza sulle donne, dei femminicidi, no? Ne parleremo questa sera con un uomo, con un magistrato del Tribunale di Milano che da tanti anni si occupa di questo tema di violenza sulle donne. Poi ci occuperemo di politica, perché è un fine settimana che è ricco di eventi, perché c'è l'ottava edizione della Leopolda a Firenze, sapete da dove è partita l'ascesa di Renzi verso la politica nazionale, e poi a Milano invece si apre la Contro Leopolda di Forza Italia, quindi avremo modo di parlare di molte cose. Ci occuperemo anche degli aggiornamenti che ci sono sull'indagine nei confronti di Igor il Russo, il proprio omicida, no? Che si è mosso nelle campagne ferraresi, è scomparso nel nulla dopo aver ucciso diverse persone, e pare che adesso ci siano delle novità nelle indagini. Molte le cose, il meteo, perché questo fine settimana dovrebbe arrivare decisamente un tempo molto brutto. Ma ci sarà modo in tutta quest'ora di raccontarvi tante cose. Prima di tutto, come sempre, vi farò all'inizio un riassunto della giornata, delle notizie più importanti, e poi cominceremo con i vari temi, con i vari ospiti. Per i vostri commenti, due modi di interagire con Effetto Note. Ogni sera ve lo dico, pagina Facebook del programma su quale potete scrivere i vostri commenti, le vostre osservazioni, oppure c'è il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Egitto, bomba e spari su una moschea, 235 morti, il presidente egiziano Al-Sisi assicura, li vendicheremo. Londra, panico nella capitale britannica per un falso allarme a Oxford Street, segnalati spari, gente in fuga nelle vie dello shopping. Violenza di genere, domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, aumenta il numero delle vittime, il capo della polizia Gabrielli dice un crimine contro l'umanità, tante le iniziative in tutta Italia. Politica, a Firenze parte l'ottava edizione della Leopolda, Renzi dice per il biotestamento si può, ma AP dice di no. E a Milano si apre la Contro Leopolda di Forza Italia, il Movimento 5 Stelle dice Berlusconi è più pericoloso dei comunisti. I due gambizzati ad Ostia, la direzione distrettuale antimafia indaga per tentato omicidio. Black Friday, lo sciopero non ferma le vendite di Amazon, guerra di cifre sull'adesione. Partiamo quindi da questa incredibile strage in Egitto, con almeno 235 morti, 135 feriti, un bilancio però non definitivo di questo attacco terroristico avvenuto questa mattina contro la moschea di Bir al-Bed nel nord Sinai. Le forze armate risponderanno con forza brutale, aveva detto il presidente Al-Sisi, e le forze aeree egiziane stanno già conducendo raid sulle postazioni jihadiste vicino al villaggio dove è stato compiuto l'attentato. Solidarietà dal presidente italiano Mattarella e dal Presidente del Consiglio Gentiloni. Sentiamo l'analisi di Ugo Tramballi. Anche nel Sinai, sempre più insanguinato e fuori controllo, un attentato così non ha precedenti. Fino ad ora le vittime designate erano i copti cristiani, soldati e poliziotti o i turisti, come nel caso dell'aereo russo abbattuto nel 2015. Questa volta i terroristi islamici, presumibilmente dalla provincia del Sinai e dello Stato Islamico, questo è il loro nome, hanno assalito musulmani con un attentato molto simile a un'operazione militare. Secondo le prime ricostruzioni, i terroristi sono arrivati davanti alla moschea Al-Rauda, vicino a El Arish, a bordo di almeno quattro grosse jeep. Era l'ora della preghiera di mezzogiorno, nel giorno santo del venerdì. Gli assalitori hanno prima lanciato una bomba dentro la moschea, poi hanno sparato sui fedeli inermi. Più dei precedenti, questo attentato dimostra che il governo centrale di Abdel Fattah al-Sisi continua a non avere il controllo della penisola, nonostante abbia sempre più aerei e sempre più elicotteri a disposizione. E che le forze del califfato, stimate dai servizi segreti israeliani attorno ai 1000 uomini, si stanno ingrossando. Repressi e privi di ogni spazio politico, diversi giovani sostenitori dei fratelli musulmani si sono dati alla lotta armata, passando all'ISIS. Questo per quanto riguarda l'Egitto. Invece adesso ci spostiamo su Londra, perché oggi è stato questo allarme, poi rivelatosi per fortuna falso, Oxford Street, che però ha generato un grande panico, vero Sergio Nava? Ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. È stato un pomeriggio di vero e proprio panico nel cuore di Londra, cuore commerciale Oxford Street, che ha coinvolto sia la strada sia anche la metropolitana di Oxford Circus. È durato poco più di un'ora, tutto è iniziato alle 16.38 locali, 17.38 qui in Italia, quando sarebbero stati uditi degli spari sia nella metropolitana sia sulla strada. A quel punto la polizia è intervenuta in massa, ci sono state scene di panico, gente che correva, gente che urlava, gente si rifugiava nei negozi. La polizia ha chiesto a tutti di rimanere nei negozi qualora si trovasse in zona, o di non andare in zona qualora si trovasse nelle vicinanze. Sono state condotte tutte quante le ricerche, alla fine è stato detto che si è trattato di un falso allarme, poiché non è stato trovato nulla che potesse far pensare, diciamo, a un tentativo di attacco terroristico. Buone notizie, però chiaramente questo mantiene alta l'allerta, certo. Ora anche sotto Natale, chiaramente, in una grande capitale come Londra. Grazie Sergio Nava. Parliamo adesso di violenza sulle donne. Domani si celebra per il 10° anno consecutivo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Roma il corteo del movimento Non Una di Meno, a Montecitorio 1300 donne invitate dalla Presidente Boldrini, tante le iniziative, insomma. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio ha confermato dati purtroppo in aumento. La Presidente, che è la senatrice democratica Francesca Puglisi, ha spiegato al microfono di Annarita D'Ambrosio cosa è emerso dai lavori in questi mesi. La cosa che va fatta, questo sta emergendo nella commissione d'inchiesta sul femminicidio e su questo sta lavorando il piano nazionale contro la violenza della sottosegretaria Boschi, è quello di offrire innanzitutto alle donne dei percorsi di autonomia, autonomia abitativa, autonomia lavorativa, perché la violenza domestica spesso è anche violenza economica. Serve un grande lavoro di formazione di tutti gli attori della rete di prevenzione e protezione, saper accogliere le vittime di violenza e a farsi carico di un percorso che le accompagni nuovamente all'autonomia e alla libertà. Poi ci torniamo naturalmente su questo tema. Siamo adesso sulla politica, con un fine settimana di appuntamenti per Partito Democratico, Forza Italia, Leopolda a Firenze, 8ª edizione, con Prodi che dice, ha detto poco fa, non sapevo neanche che ci fosse. Renzi commenta sulla legge relativa al biotestamento, si può, i numeri ci sono, ma intanto Alternativa Popolare fa sapere che è assolutamente contraria. A Milano si apre la contro Leopolda di Forza Italia. E Berlusconi dice il Movimento 5 Stelle è più pericoloso dei comunisti nel 94, quando scesi in campo. Insomma, ce ne occuperemo ampiamente qui Effetto Notte. Intanto oggi, sempre a Milano, ci sono stati stati generali contro la mafia. C'era per noi la nostra Raffaella Calandra. Che si è detto, Raffaella? Ciao. Ciao Roberta, ciao. 30 anni dopo il maxi processo, quando quella stagione anche simbolicamente si è chiusa con la morte del capo dei capi di Cosa Nostra, appunto qui agli stati generali della lotta alle mafie si è messa insieme una carta di Milano, così l'ha chiamata il guardasigilli Andrea Orlando, per provare ad aggiornare gli strumenti di contrasto ai boss. Tra questi si è parlato anche del dibattito di riformare lo stesso reato di associazione mafiosa, che in questi decenni è stato il cardine di tutti i processi. Fare un tagliando al 416 bis ha proposto il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, ma per il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone si rischierebbe di far crollare tutto il castello, e devo dire che i principali procuratori si sono un po' divisi tra le due posizioni. Ma in vista delle imminenti elezioni il ministro dell'interno Marco Minniti ha rinnovato il suo appello ai partiti per un patto solenne e formale, ha detto, per tenere fuori il voto dei clan, e lo ha ribadito alla presenza del capo dello Stato, dando ancora più solennità alla cosa. Questa conferma, come ha detto ancora una volta il ministro della giustizia Orlando, che la lotta alle mafie non si combatte soltanto all'interno delle aule di giustizia, ma ancora di più all'interno della società civile. Roberta. Grazie Raffaella Calandra. E adesso sul ferimento di due persone ieri a Ostia, la direzione distrettuale antimafia indaga appunto per tentato omicidio. Ci sono alcuni elementi certi nell'agguato di giovedì sera davanti alla pizzeria Disco Giro Pizza di Via delle Canarie a Ostia. L'attentatore era travisato da un casco, ha estratto la pistola e ha fatto fuoco contro il padre della proprietaria del locale, Alessandro Bruno, e il pizzaiolo Alessio Ferreri, nipote di Terenzio Fasciani, fratello di Carmine, capo dell'omonimo clan. Lo scooter utilizzato dagli aggressori è stato dato alle fiamme e poi rinvenuto dalla polizia, sempre a Ostia. Regolamento di conti oppure una vicenda legata a racket? Comunque sia, le modalità utilizzate sono quelle tipiche di un agguato di stampo mafioso. La DDA di Roma procede infatti per tentato omicidio. Ostia può servire come microcosmo di osservazione per dire che non esiste più una mafia, ma ne esistono tante, dice il procuratore di Roma Pignatone. È vero, a Ostia opera una delle tante mafie, comunque sempre pericolose. Daniele Biachessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi del PD, è indagato per concussione. L'accusa di aver chiesto favori sessuali a una rappresentante di un'associazione cittadina in cambio di contributi da erogare. Non ho mai chiesto favori a nessuno, abusando del mio ruolo, ha detto il sindaco. Conosco quella signora, ma non vi è mai stato nulla di privato. Il comune concesse solo il patrocinio all'associazione, si difende Palazzi. La vicenda poi si tinge di giallo perché la presunta vittima nega di essere l'autrice della denuncia. Al momento quindi non è ancora chiaro chi l'abbia presentata. All'estero adesso, la Corte Suprema d'Appello ha aumentato la condanna di Oscar Pistorius a 13 anni e 5 mesi dopo aver giudicato la sentenza precedente di 6 anni troppo clemente. L'ex campione paralimpico sudafricano aveva iniziato a scontare la sua pena nel luglio del 2016 dopo la condanna nel processo d'appello per l'omicidio della fidanzata Riva Steenkamp, uccisa con 4 colpi di pistola la notte di San Valentino del 2013. Pistorius, che si è sempre definito innocente, ha affermato durante il lungo processo di aver sparato pensando che ci fosse un ladro in casa. L'accusa però è riuscita però a portare il caso presso la Corte d'Appello Suprema, che all'unanimità ha incrementato la pena. Una notizia adesso che arriva dalla Chiesa di Svezia, la principale religione del paese, ha invitato i suoi fedeli a usare un linguaggio neutro quando si riferisce a Dio, e quindi basta usare termini come Signore o Lui o Padre. Quando se ne parla è meglio usare dei termini meno specifici, privi di genere sessuato. Abbiamo iniziato a parlare della necessità di un linguaggio più inclusivo possibile nel lontano 1986, ha spiegato l'arcivescova Angie Jacklin, 58 anni, dal 2013 alla guida della Chiesa di Svezia. Dice: Dio va al di là del concetto di genere, non è umano, ha detto all'agenzia di stampa, ed è una decisione che sta facendo molto discutere. Di nuovo in Italia fa discutere anche lo sciopero di Amazon a Piacenza, che ha messo a rischio il Black Friday quest'anno, che è stato massicciamente celebrato anche in Italia. Il pacco oggi è per Amazon. Si leggeva anche questo su uno dei cartelli vicini all'entrata del centro logistico di Castel San Giovanni nel Piacentino. Da qui, nel Black Friday dello scorso anno, sono stati movimentati 1,2 milioni di pezzi, a segnare il picco giornaliero. Qui, nel Black Friday di quest'anno, i sindacati hanno voluto mandare un segnale forte all'azienda, proclamando uno sciopero che è il primo subito da Amazon nel nostro paese. La protesta è per la mancanza del contratto integrativo e per ritmi e condizioni di lavoro definiti insostenibili. Nessun disagio per la produzione, secondo l'azienda, viste le adesioni al 10%, ma come di consueto è guerra di cifre. Fiorenzo Molinari, segretario Filcams CGL di Piacenza. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo un'adesione del primo turno attorno al 50%. Ho sentito che l'azienda ha detto il 10%, ma certamente perché tiene conto anche dei verdi, cioè quelli somministrati. Noi abbiamo spinto soprattutto a far sciopero alle persone che hanno un contratto a tempo indeterminato. Intanto lunedì sindacati e azienda si incontreranno. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere il calcio, 4 partite in programma domani. La giornata si apre alle 15 con Bologna-Sampdoria, in serata il Cagliari ospita l'Inter. Domenica alle 15 in campo la Roma, Milan e Napoli. Alle 18 Lazio-Fiorentina, posticipo con Juventus-Crotone. Bene, riassunto la giornata qui si ferma, aggiorniamo invece chi si sta muovendo e poi cominciamo con gli ospiti a affrontare i vari argomenti. 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp o SMS, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio su Bersani, che dice: noi mai con la destra, il Movimento 5 Stelle sono di centro, dice, mentre Berlusconi, avete sentito prima, vi raccontavo, e dice che sono più pericolosi i grillini, gli esponenti del Movimento 5 Stelle, dei comunisti. Allora Sergio dice: non sono né di sinistra né di destra, il Movimento 5 Stelle sono solo per le buone finalità per i cittadini, ci vive il Movimento 5 Stelle. Giobbe dice: Bersani fa una coalizione dopo le elezioni con i 5 Stelle ed è per questo che si tiene Libero adesso. Insomma, queste sono le varie ipotesi, ma poi ne parleremo con la nostra commentatrice tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve lo ricordate, le notizie più importanti nel racconto, nel riassunto della giornata? Poi sapete che dopo i titoli principali ve li rammento per chi non avesse acceso puntualmente alle 21. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure per WhatsApp ed SMS al 349-238-6666. Allora, vi ricordo, prima di passare al primo tema, intanto c'è Clotilde che scrive: grazie Roberta perché hai un modo di dare notizie che riesce a farmi digerire anche la pseudopolitica, se lo dici tu. Concordo con la Boldrini rispetto all'appello che ti hai sentito all'inizio e che tra poco faremo risentire. Dice: ti auguro un buon fine settimana, eccetera eccetera. Queste le notizie principali. Egitto, bomba e spari su una moschea, 235 morti, il presidente egiziano Al-Sisi assicura: li vendicheremo. Londra, panico nella capitale britannica per un falso allarme a Oxford Street, segnalati spari, gente in fuga nelle vie dello shopping. Violenza di genere, domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ne parleremo tra pochissimo. E poi politica, Firenze si apre la Leopolda, mentre a Milano la contro Leopolda di Forza Italia. Black Friday, lo sciopero non ferma le vendite di Amazon, guerra di cifre sull'adesione. I dati sono insopportabili, non è un problema solo italiano, ma i dati sono insopportabili. È insopportabile sapere che ogni due giorni e mezzo, anche quel mezzo, no? Nel nostro paese una donna viene uccisa per mano di chi in teoria dovrebbe amarla, ogni due giorni e mezzo, una cadenza proprio macabra. Ed è a loro che io voglio rivolgermi, agli uomini non violenti, che sono la gran parte. Io penso che questi uomini sono troppo silenziosi. Questi uomini non si sentono, non si vedono, non si sentono. Sono, come dire, sono da parte. Ma io dico, se volete veramente davvero bene alle donne, se veramente voi le amate, le donne, le vostre mogli, le vostre figlie, voi uomini non violenti, fatevi avanti. Dovete stare con noi, insieme a noi, in prima linea per fare questa battaglia. Ve l'avevo fatto sentire all'inizio, questo è l'appello così accorato, appassionato, bello della Presidente della Camera Laura Boldrini. Allora coinvolgo un uomo oggi su questo tema che è Fabio Roia, non un uomo qualsiasi, è un magistrato, giudice e presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano e che da tanti anni è attivo su questo tema, sulla violenza nei confronti delle donne, e ha scritto anche diversi saggi. L'ultimo in uscita proprio in questi giorni si intitola Crimini contro le donne, politiche, leggi, buone pratiche. Buonasera, dottor Roia. Buonasera a tutti voi. Allora, siamo alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Da inizio anno, secondo i dati Eures, sono state 150 le vittime di femminicidio, una piaga in crescita, soprattutto al centro-nord. 3 su 4 sono uccise da partner o da ex partner. Nel 44% delle volte la vittima aveva denunciato alla magistratura, alle forze dell'ordine, senza però che fossero state approntate delle misure adeguate per salvare loro la vita. Il record è in Lombardia, anche se è proprio la regione poi dove c'è maggiore sostegno nei confronti delle donne. Da una ricerca Ipsos, un italiano su 6 attribuisce alla donna la responsabilità della violenza. Poi rimangono radicati tantissimi stereotipi di genere sul ruolo della donna, sul ruolo che la donna deve avere, la violenza che deve rimanere chiusa tra le mura domestiche, come si diceva una volta, i panni sporchi si lavano in casa, in famiglia. E poi è una ricerca che già, di cui parlavo ieri, questa di Modavi Onlus. I dati sono stati riportati a margine della giornata ieri di dibattito sul tema L'amore non ha lividi, promosso dal magazine Pink Italia a Roma. c'erano anche degli esponenti del governo, secondo cui il 17% dei ragazzi trova accettabile la violenza sulle donne, il 27,50% la giustifica in caso di tradimento della donna, il 18% ritiene una reazione giustificata se c'è stata una provocazione da parte di lei. Insomma, questi sono i dati, tante sono le iniziative in tutta Italia, anche le centinaia di donne invitate per domani alla Camera dalla Presidente Boldrini. A Roma c'è nei giardini di Piazza San Marco 100 sagome bianche, ognuna con affisso un foglio con la storia di una vittima di violenza, questo per iniziativa dell'UGL. Poi domani c'è la manifestazione sempre a Roma del movimento Non Una di Meno, che parte alle 14 da Piazza della Repubblica. Però, dottor Roglia, ritornando ai dati sconcertanti di prima, sia i numeri delle vittime ma anche dei ragazzi che pensano, un italiano su sei, ma anche di molti ragazzi che pensano che in qualche modo sia giustificabile, che speranze abbiamo e che cosa veramente bisogna fare? Allora, è una guerra civile di genere da questi numeri, una guerra civile che abbiamo in casa, e i dati più allarmanti, devo dire più deludenti e francamente disarmanti, sono quelli che lei ha ricordato, che riguardano proprio il comune sentire dell'uomo, che dice una volta su sei che la colpa è della donna. Qui proprio non ci siamo. Il crimine contro una donna, il maltrattamento, la violenza sessuale domestica e poi per altri versi lo stalking è un crimine di relazione che l'uomo, io sono convinto, compie per inadeguatezza di genere. A un certo punto perde la donna o comunque non la controlla sul piano relazionale, si sente inadeguato e per una serie di motivazioni che vanno dalla subcultura, dalla retroguardia, dal senso di possesso, pratica la violenza. Allora bisogna intervenire sulla cultura, sul substrato, sulla biologia, oserei dire, dell'uomo, per fargli cambiare completamente questo tipo di rapportarsi, di relazionarsi con la donna, perché altrimenti non ne usciremo mai. Sul piano penale si deve fare di più. È disarmante quel dato che il 44% delle donne vittime di reati abbia denunciato. Qui ci sono colpe nostre, degli operatori di giustizia. Quando una donna denuncia, quella denuncia va immediatamente lavorata, istruita, va capito il rischio al quale la donna è in quel momento esposta a causa della violenza dell'uomo. E su questo si deve fare, perché il femminicidio, eliminiamo un altro stereotipo, non è un evento non evitabile, è un evento su cui si deve lavorare, si deve prevenire, si deve assolutamente evitare questa tragica fine. Su questo abbiamo delle responsabilità tutti noi operatori giudiziari, perché non applichiamo bene le leggi che ci sono. Come lei scrive proprio nel libro in uscita, crimini contro le donne, pratiche, leggi, politiche, leggi, buone pratiche, dove appunto ha voluto raccogliere tutto il materiale esistente, convenzioni internazionali, leggi nazionali, provvedimenti di indirizzo politico, proprio come strumento di informazione e di formazione per tutti gli operatori, cioè le forze dell'ordine, magistrati, assistenti sociali, eccetera. Quindi da più parti, no, si parla di questa necessità di una rivoluzione culturale, quindi dell'educazione nelle scuole, nelle famiglie, nella società. Poi ci vorrebbero maggiori risorse per i centri antiviolenza, sinergie tra l'altro tra le istituzioni, no? Perché magari forze dell'ordine, poi però dopo finisce che appunto le stesse forze dell'ordine a volte ci sono degli intoppi, rimandano a casa la vittima dicendo vabbè si tranquillizzi, oppure i processi che sono lenti o le indagini che scattano tardivamente. Quindi una giustizia anche, come diceva lei, dottor Roglia, efficiente, preparata, no? E che... Assolutamente sì, in questa materia molto più che nelle altre non si può improvvisare, bisogna sapere a chi ci troviamo di fronte, non bisogna giudicare la donna, bisogna ascoltarla, bisogna creare un clima di... Lo riprendiamo, deve essere probabilmente in stazione adesso il magistrato Fabio Roglia, quindi lo richiamiamo. E vi dicevo appunto prima dei dati, per il piano antiviolenza il governo ha stanziato 33 milioni all'anno per i prossimi 3 anni, si tratta di risorse certamente importanti per mettere in campo azioni forti, efficaci, però tante cose ancora sono da fare. Dottor Roglia, rieccoci qui. Ci sono ancora tanti uomini, è incredibile questa cosa, che scrivono quando scrivono messaggi oppure mentre si parla fuori tra persone comuni, che negano questa cosa e si sentono quasi penalizzati, perché dicono basta parlare di femminicidio, parliamo di violenza in generale, come se volessero negare questo fenomeno e pensassero che allora le donne hanno più diritti, se esiste un fenomeno così terribile che le riguarda, mentre loro dicono allora gli uomini hanno meno importanza se non esiste il maschicidio. Come può spiegarli in modo efficace a questi uomini che è un fenomeno ben preciso innanzitutto questo? Innanzitutto direi a questi uomini di andarsi a guardare le cifre. Io ho visto quelle del Tribunale di Milano, stamattina abbiamo fatto una delle tante iniziative, quando nei processi del 2017 per maltrattamento, per violenza sessuale, per stalking abbiamo una percentuale di vittime che va dal 94% al 92% che sono donne, evidentemente non è una fantasia. Non è un pregiudizio ideologico, non è una battaglia diciamo di sinistra, come la si vuol chiamare, è un problema reale che i dati statistici evidenziano. Gli uomini sono normalmente dei negazionisti, perché poi o la prendono in questo modo, cioè negano l'esistenza di un problema, oppure dicono appartiene a qualcun altro, io non mi ci ritrovo, e poi magari sono i primi che nel luogo di lavoro fanno delle avance non gradite alle colleghe o fanno delle battute sessiste, e quindi è proprio un fatto culturale di mancanza di percezione del problema. Oppure agiscono violenza e però lo ritengono ancora un qualcosa giustificato. Noi siamo una società che proviene da una cultura un po' retro, dove fino al 1975 c'era una sorta di ius corrigendi da parte dell'uomo nei confronti della propria moglie. Quindi risentiamo di queste leggi che sono arrivate molto tardi e di una cultura che ancora abbiamo dentro. Da questo punto di vista quello che mi preoccupa di più sono proprio le nuove generazioni. Già. Quei dati che lei ha letto sono dati preoccupanti, allora bisogna lavorare su tre fronti, ovviamente sull'attuale, sull'emergenza, perché bisogna fare i processi bene, bisogna dire alle donne denunciate, però attenzione, denunciare significa anche poi farsi carico dei loro problemi, quindi attivare le reti di protezione, sostenerle da un punto di vista legale, psicologico, anche economico. Molte donne non denunciano perché non hanno fonti di reddito autonome o non sanno dove andare, quindi non basta dire denunciare, bisogna denunciare, ma bisogna intervenire con efficacia e tempestività. Gli operatori di giustizia, fra cui i magistrati e i poliziotti, devono avere la consapevolezza e la specialità nel trattare queste vicende. E poi bisogna lavorare molto, ma molto, ma molto sul piano della prevenzione, perché non è accettabile che dei ragazzi, dei maschietti, adolescenti o post-adolescenti o giovani adulti si avvertano ancora il problema delle donne in questa maniera, come se fosse un qualcosa di enfatizzato. Del resto, a parte il 25 novembre e l'8 marzo, negli altri 263 giorni dell'anno, noi tutti i giorni pratichiamo delle forme di violenza, si pensa alla comunicazione, si pensa alla pubblicità sessista, si pensa anche alle battute sessiste che noi quotidianamente facciamo. Queste sono forme di violenza che derivano proprio da una genesi storica di mancanza di rispetto verso la diversità di genere. E c'è Alberto che scrive: se il 44% delle denunce fosse stato accolto, ora il 44% sarebbe viva, molto probabilmente, infatti, come si diceva. E poi c'è Mauro che scrive: per quello che ne posso sapere, nessuna donna di mia conoscenza è vittima di violenza, quindi cosa mi devo fare avanti a fare, dice Mauro. Ecco, io per chiudere, magistrato Roia, io le vorrei chiedere, lei ha già detto tantissime cose anche agli uomini, soprattutto agli uomini, ma per esempio questo ascoltatore Mauro risponde evidentemente all'appello della Presidente della Camera Boldrini, che ha detto voi, soprattutto voi uomini non violenti che siete a maggioranza, fatevi avanti. Ma non è che se uno non conosce una donna che è vittima di violenza non deve dire niente e dice chi se ne frega? È un problema collettivo, generale, d'accordo? Lei che cosa direbbe agli uomini in generale da uomo? Lei ha parlato da magistrato. Sì, che non innanzitutto la violenza c'è e molti fingono di non vederla perché non vogliono conoscerla o non la conoscono. Penso per esempio ai vicini di casa, quando sentono le urla provenire dall'appartamento vicino, magari sentono una donna urlare, il primo problema che si pongono è degli schiamazzi, non che ci può essere una donna in pericolo, tanto per fare un esempio concreto di scarsa sensibilità sociale. E a questo ascoltatore direi che la violenza esiste, va vista, non è un problema degli altri, ma è un problema nostro. Noi, e mi metto come uomo, abbiamo una debolezza di genere che deriva dal momento in cui vediamo che la nostra compagna, la nostra partner è più forte sul piano della relazione, è più forte sul piano sociale, allora questo non lo accettiamo e diventiamo violenti, violenti verbalmente, violenti psicologicamente e forse anche violenti fisicamente. Io devo dire che l'uomo non è un macho, l'uomo è bello anche perché magari ha le sue debolezze, le sue fragilità e quindi può accettare di non avere questo stereotipo della forza, del non pianto, dell'essere sempre pronto a fare delle grandi prove. Forse essere uomini oggi significa anche avere delle debolezze e chiedere aiuto ad una donna. La posizione di parità di genere è questa, secondo me. Magistrato Roia, io la ringrazio moltissimo, moltissimo, e tra l'altro dico a Mauro, non è solo una questione di denuncia se conosce o non conosce, è dire la propria su questo tema e dirlo appunto con le parole magari meno competenti di quelle del magistrato Roia, però dire da che parte si sta, ecco, principalmente. E posso permettermi anche praticarlo oltre che dirlo, certo, perché naturalmente, diciamo tante persona. Cose, poi ogni giorno va praticato, quello che diciamo giustamente domani è l'8 marzo. Grazie, dottor Fabio Roia. Ricordo, e leggetevi questo libro, Crimini contro le donne, del magistrato Fabio Roia. Grazie, grazie ancora e buona continuazione. Adesso ci fermiamo per questa pausa e poi ci sono gli altri temi. Pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete una giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, che vi sta accompagnando come tutte le sere, anche questa sera dalle 21, attraverso le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, e poi con vari temi da approfondire con gli ospiti. Abbiamo parlato adesso lungamente con un magistrato del Tribunale di Milano, uno straordinario magistrato che si occupa da anni di violenza contro le donne, appunto alla vigilia della giornata internazionale a loro dedicata a questa piaga, ne abbiamo parlato lungamente. Adesso ci occupiamo di politica tra pochi istanti. Per chi non avesse acceso puntualmente, adesso ricordo anche i titoli principali e poi per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Luciano per esempio dice: ma la Chiesa che cosa dice su questo tema? Sbaglio o c'è uno strano silenzio? Non dimentichiamo che probabilmente molte donne passano dalla confessione, così come come i maschi negazionisti frequentano la Chiesa. In effetti, Luciano, diciamo, questo Papa qualcosa ha detto, ma potrebbe la Chiesa italiana dire molto di più attraverso tutti i suoi uomini, no? Dai sacerdoti fino ai vescovi, eccetera. Comunque, adesso cambiamo tema e vi ricordo che questi sono i temi principali, le notizie principali di oggi. La strage che c'è stata in Egitto con bombe e spari su una moschea, 235 morti, il presidente al-Sisi che promette li vendicheremo. A Londra panico nella capitale per quello che per fortuna si è nella capitale britannica rivelato come un falso allarme. Oxford Street, c'erano stati segnali di spari, gente che scappava, per fortuna un falso allarme. Violenza di genere, ne abbiamo appena parlato in vista della giornata internazionale di domani. Della politica ci occupiamo adesso. Black Friday, lo sciopero non ferma le vendite di Amazon, guerra di cifre sull'adesione. Cena da Livi Bacci o la Leopolda? Cena da Livi Bacci. A cena da Livi Bacci, senza ripensamento. Non sapevo neanche che ci fosse la Leopolda. Non l'hanno. Non vedo perché mi dovessero invitare, no? Era una roba da giovani, era, no? Mi hanno detto, non so. Una roba da giovani, dice Prodi quando gli hanno chiesto, ma lei non è alla Leopolda a Firenze? Dice, ma veramente neanche sapevo che ci fosse. Barbara Fiammeri, possibile che Prodi neanche sapesse che ci fosse l'ottava edizione della Leopolda a Firenze? Da dove partì 8 anni fa l'ascesa inarrestabile, o adesso non so bene come dire, di Renzi alla politica nazionale? Barbara? Essendo un attento lettore di giornali, escludo che Romano Prodi non sapesse che si teneva la Leopolda. Quindi si è schermito un po' per il fatto di non essere lì o di non essere stato invitato, non lo so. Direi che ha utilizzato il suo sarcasmo per evidenziare ancora una volta la sua distanza da Renzi, che non significa una distanza dal Partito Democratico e dallo sforzo che si sta facendo all'interno del Partito Democratico per, come dire, costruire un'alleanza. Però la battuta, secondo me, è un modo per sottolineare e confermare la distanza da Matteo Renzi, che è il padrone di casa della Leopolda. Già. Rosato, sentiamo Rosato del PD. Siamo impegnati sui temi concreti, i problemi che riguardano le persone, gli italiani. Lo facciamo durante la legge di bilancio, affrontando temi come le pensioni, il lavoro, l'occupazione, lo sviluppo. E lo facciamo alla Leopolda, parlando di programmi per il prossimo futuro. E perché Renzi ha detto basta parlare di alleanze, no? Perché questi giorni si è parlato tantissimo nelle ultime settimane di alleanze, con Fassino che cercava di ricucire tutte le parti a sinistra, poi alla fine insomma sembra che per il momento non ci sia nessuna cucitura, forse c'è la possibilità con Campo Progressista di Pisapia e con Alfano. Alfano ha escluso di allearsi con centrodestra, però pone delle condizioni nei confronti del PD. Vogliamo sentire Alfano? La nostra formazione politica ha una origine molto netta e molto chiara. Questo spiega sul piano più alto e nobile le ragioni per cui qui noi non stiamo discutendo di posizionamento tattico, ma dopo una legislatura così faticosamente portata a termine con questi buoni risultati c'è un dibattito in cui legittimamente ciascuno esprime la propria opinione e nell'ambito di questa discussione una opzione, cioè quella del rapporto col centrodestra, è stata esclusa. Esclusa, quindi diciamo, però sappiamo che il campo progressista dice no, se c'è il centrodestra noi no, insomma è ancora da vedersi, no? E anche, vediamo che cosa emergerà da questa Leopolda, Barbara. Sì, credo che per quanto riguarda i centristi dalla Leopolda non emergerà una vera e propria risposta. Penso invece che Alfano è consapevole che nel momento in cui dovesse scegliere, avendo escluso l'alleanza con Berlusconi e Salvini, come dire, l'ultima mediazione che era stata trovata era quella andiamo da soli, su questa linea diciamo si erano momentaneamente ricompassati. Ora Alfano praticamente cerca di prendere tempo perché ancora le squadre in gioco non sono definite. Già. Però insomma è evidente che qualora Alternativa Popolare dovesse decidere di schierarsi con il centro-sinistra, molti dei suoi esponenti di punta, a partire da forse da, per esempio dall'attuale capogruppo alla Camera Maurizio Lupi, non sarebbero più parte di quel partito e tornerebbero al centro-destra, anche perché non bisogna dimenticare che molto probabilmente andremo incontro a un election day, cioè si voterà assieme alle politiche anche le regionali e forse addirittura le comunali e le amministrative di maggio. Se andiamo incontro a un appuntamento del genere, è abbastanza evidente a tutti che non sarebbe comprensibile presentarsi, non so, in Lombardia assieme al centrodestra per la conferma di Maroni e poi dall'altra parte col centrosinistra e poi con Renzi nel collegio milanese con Pisapia e Renzi. Già. Insomma, quindi è evidente che sarebbe poco comprensibile, non sarebbe accettata peraltro dagli elettori. Barbara, però c'è la Leopolda a Firenze e a Milano, la contro Leopolda, quella di Forza Italia, con Berlusconi dovrebbe essere presente forse domenica, ma sentiamo che cosa ha detto a proposito dei 5 Stelle. Oggi c'è un grande pericolo per l'Italia, quello dei 5 Stelle, un pericolo che è peggiore di quello dei comunisti nel 1994. C'è il rischio concreto che il paese cade in mano a un partito politico irresponsabile, con persone impreparate, incapaci, senza nessuna esperienza, che non hanno mai lavorato, che non hanno mai amministrato alcunché. Quello che dice da un po' Berlusconi, no? Adesso diciamo il nemico è il Movimento 5 Stelle. Vogliamo sentire Pesco del Movimento 5 Stelle? Intorno a noi vediamo solo partiti interessati a spartirsi il paese e le poltrone, partiti che litigano. Noi andiamo avanti per la nostra strada e racconteremo nelle piazze il programma di cambiamento che vogliamo per il nostro paese. Barbara, un commento, abbiamo l'ultimo minuto, gli ultimi 57 secondi. Il commento è molto, se vuoi, anche lapidario, banale. Sì. Sì, più che altro banale, perché diciamo il centrodestra ha sicuramente, quando ha governato, ha fallito ed è stato punito dagli elettori. Il centro-sinistra probabilmente, anche il centro-sinistra, sarà condannato al fallimento. I 5 Stelle, per come stanno amministrando in alcune realtà, non promettono niente di buono. Siamo messi davvero male. Ai ai ai, con questo chiudiamo la settimana con Barbara Fiammeri per quanto riguarda la politica. Grazie cara Barbara, alla prossima settimana. Ciao Barbara, c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Mentre continuate i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, io devo correre perché abbiamo ancora due temi. Vi dicevo, le notizie principali sono questa strage in Egitto, bombe spari su una moschea, 235 morti, il falso allarme che ha creato panico a Londra, la violenza di genere alla vigilia della giornata internazionale della violenza sulle donne, abbiamo parlato di dati con magistrato, e poi per la politica la Leopolda e la contro Leopolda, una a Firenze e una a Milano. Adesso invece ci concentriamo sull'indagine su Igor il Russo. La procura di Bologna, secondo quanto riporta riporta il quotidiano La Repubblica, avrebbe individuato un nucleo di persone che potrebbero aver favorito la latitanza di Igor il Russo, che poi in realtà è un serbo, si chiama Norbert Ferrer, è un pluriomicida e da mesi ha fatto perdere le sue tracce, malgrado un grande dispiegamento di forze. Ne parliamo con Fabio Tonacci, giornalista della Repubblica. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera. Che novità quindi ci sono su questa indagine di questo fantasma ormai? Appunto, un fantasma. Fondamentalmente qualche settimana fa è finita anche l'ultima parte della caccia all'uomo, quella che si era sviluppata nel Ferrarese, nei luoghi di questo serbo che poi ha creato un'altra identità proprio per cercare di depistare il più possibile gli investigatori. A questo punto continua l'indagine, quella vera, quella classica, quella con intercettazioni, quella con i pedinamenti, testimonianze, raccolta. E non può che essere così che i PM, i magistrati bolognesi hanno individuato una parte della rete che può averlo aiutato sia a coprirsi nel momento in cui c'era un pezzo di Stato italiano che era andato, vi ricorderete, ad aprile, no? 300 sì. Uomini, era andato in quelle zone per cercare di prenderlo, quindi chi lo ha coperto in quel momento, gli ha dato una mano, e chi può averlo aiutato a fuggire. Ora, dove si trova questo fantasma? Al momento nessuno ha un'idea precisa. La mia opinione è che si trovi all'estero. È probabile che sia all'estero. È probabile che si trovi all'estero, esatto. Quindi, insomma, qualcuno ci deve anche spiegare come ha fatto ad andarsene. A un certo punto era il latitante più famoso dopo Matteo Messina Denaro. Vi ricordate quei giorni, no? Di aprile, la paura, il terrore, anche perché fondamentalmente oggi noi ne parliamo tanto su Repubblica, ma inizialmente era stato individuato, cioè era stato creduto come fosse proprio un criminale di bassissima lega. Per quanto fosse stato rivenduto alla stampa come un Rambo, vi ricordate, si diceva che fosse uno che aveva fatto servizio nelle forze speciali dell'Armata Rossa, sì. Tutte fandonie, probabilmente non ha nemmeno fatto il militare, però la verità stava nel mezzo, non era né l'ultimo arrivato né un Rambo, stava nel mezzo, era uno che aveva anche delle grosse sapeva vivere in quelle zone, era oggettivamente un selvatico. Se la sapeva cavare bene, insomma. Sì, ma per esempio, una cosa che noi raccontiamo oggi e che mi ha colpito, per esempio, loro hanno trovato, piano piano, loro i carabinieri, hanno trovato in quella zona, in quella piccola zona, 20 covi suoi, una ventina. Covi già. Uno addirittura con delle telecamere, se non sbaglio, che erano collegate a computer. Esattamente, hanno trovato una webcam collegata, che era collegata a un computer, al suo computer, una webcam nascosta in un ramo, in cui lui praticamente si era creato un mini impianto di videosorveglianza, ovviamente rudimentale, rotto. Così all'aperto, incredibile. Infatti. Fuga. Quindi non è esattamente proprio l'ultimo arrivato. Fabio, adesso si stanno concentrando sulla rete di chi lo può aver aiutato. Ci sono ex detenuti che hanno vissuto in cella con lui, ci sono, per esempio, lui aveva... si è accreditato ed era un punto di riferimento per molti campi nomadi di quella zona, per esempio. E stanno cercando un po' di capire chi, visto che non l'hanno preso al momento. Auguriamoci che quantomeno tutta questa rete intorno a lui, no, venga. Stanno cercando di capire come ha fatto a sfuggire già fino ad oggi. E l'unico è individuare la rete. Chi l'ha sostenuto. Grazie Fabio Tonacci della Repubblica. Speriamo i nuovi Grazie sviluppi. A voi, buona serata. Ciao Fabio, buon lavoro. Ora invece è tempo di sapere che tempo farà, ma temo che ci saranno brutte notizie del nostro Paolo Corazzoni di Trebi Meteo. Paolo? Buonasera Roberta, dipende dai punti di vista, in fin dei conti. Ti piace la pioggia, il freddo? A me fa tanta tristezza. Brava, quindi sì. Io sono contento. Allora, in effetti il tempo cambia sull'Italia, domani una perturbazione raggiunge il nord portando piogge diffuse sul nord Italia. Nulla di eccezionale, però tra l'altro anche il merito di ripulire un po' l'aria. Torna anche la neve sulle Alpi, per ora quote medio-alte. Poi domenica questa perturbazione si sposta verso il centro-sud con effetti soprattutto sulle regioni del Medio Adriatico, ma anche nelle regioni meridionali qualche acquazzone passa. La cosa importante è che dietro questa perturbazione si nasconde aria più fredda, quindi una volta che passa in realtà ci lascia in eredità temperature più basse, quindi settimana prossima valori quasi invernali, al primo mattino anche sotto zero al centro-nord, quindi prepariamoci a coprirci di più, e tra l'altro a metà della prossima settimana arriva un'altra perturbazione, troverà aria più fredda e quindi al nord è possibile che avremo anche nevicata a quote molto basse, soprattutto tra la Lombardia e il nord-est.